GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli, anche noi ripartiamo dai sondaggi, anzi dal nostro sondaggio, lo trovate sulla homepage di radio24.it. Abbiamo chiesto l'Europa cosa rappresenti, come la vorresti, si clicca da questa mattina. Per adesso cosa rappresenta per te l'Europa? Il più votato col 32% delle preferenze è l'Europa è un'opportunità, ma cosa vorresti dall'Europa? Il più cliccato finora è meno burocrazia. Tutto questo lo ricordiamo alla vigilia della festa dell'Europa, domani moltissime le celebrazioni, convegni, il dibattito. Intanto un passo storico contro la lotta alle mafie arriva dal Parlamento europeo, in questi giorni riunito a Bruxelles. L'europarlamentare e presidente della Commissione sul crimine organizzato del Parlamento europeo, Sonia Alfano, ci spiega di cosa si tratta al microfono di Anna Migliorati. È stato un momento epocale, altrettanto epocale come quello in cui è stata istituita per la prima volta all'interno del Parlamento europeo la Commissione sul crimine organizzato, sulla corruzione e riciclaggio di denaro. Ieri per la prima volta paletti fissi sulla confisca dei beni frutto di proventi illeciti e paletti fissi su un testo unico di contrasto alle mafie, un testo unico antimafia. Sono i primi passaggi. Il monitoraggio dei flussi finanziari, l'introduzione del reato di associazione mafiosa, questa è una cosa importantissima. Perché in Italia c'è, ma non c'è in tutti i paesi europei e non c'è a livello europeo. No, assolutamente non esiste in nessun altro paese europeo. Insomma, un modello italiano che viene esportato. Grazie dunque Anna Migliorati. Ricordo l'intervista della Sonia Alfano, che è presidente della Commissione sul crimine organizzato del Parlamento. Ancora altre notizie. Un ambiente marino e costiero sostenibile, un sistema turistico competitivo in Europa, l'obiettivo della Federazione Europea delle Imprese Balneari, che si è costituita proprio a Bruxelles. Abbiamo voluto collegare il battesimo di questa iniziativa, ha spiegato l'europarlamentare Carlo Fidanza, la discussione su due provvedimenti su quale è importante ascoltare la voce di chi fa impresa, quindi la spiaggia torni al centro del sistema turistico competitivo. Intanto continua la guerra dei pannelli solari tra UE e Cina. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, la Commissione europea è ormai pronta ad adottare come misura provvisoria dazi del 46% sui prodotti cinesi. Bruxelles ha aperto a settembre dello scorso anno un'inchiesta anti-dumping sui pannelli solari cinesi che si deve concludere entro 15 mesi dall'apertura. Un'ultima segnalazione, ieri abbiamo parlato di Festa dell'Europa in chiave fiorentina, un festeggiamento che va avanti per 4 giorni. Vi segnalo anche un evento organizzato dalla Commissione Europea in collaborazione invece con l'Università Bocconi di Milano, 9 maggio, domani, dedicato ai giovani e alle imprese, un incontro che si chiama L'Europa scommette sui giovani imprenditori, rivolto agli studenti e ai giovani che vogliono fare impresa e ai rappresentanti del mondo imprenditoriale. Tutto questo domani, Aula Magna dell'Università Bocconi alle 17. Bene, con questo abbiamo concluso. GR Europa, come sempre, torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.